esattamente quello, ho cercato un po' di indorare la pillola immaginando di rivolgermi a un ipotetico figlio o figlia, però oggettivamente sono consigli che vanno bene per qualsiasi età, anzi di solito più passa il tempo e più se ne ha bisogno. Hai pienamente ragione, abbiamo bisogno di questi messaggi. Infatti un po' l'altra domanda era: cosa ti ha spinto a scrivere un brano con questa tematica così importante, nel senso che è una cosa che appunto volevi dire a te stesso, nasce da un'esperienza personale o da quello che vedi intorno? Ma probabilmente tutto quello che hai detto. Inizialmente sono partito da me, sicuramente mi sono reso conto che ho bisogno di reminder del genere spesso e volentieri, e quindi ho pensato di metterlo in musica. Però come dicevamo prima, serve a chiunque, assolutamente, ce n'è sempre più bisogno, anche perché diamo sempre tutto per scontato e guarda caso gli eventi recenti, pandemia uno su tutti, ci fa rendere conto che non è proprio tutto così scontato, non è tutto così consolidato e scritto nella pietra, può finire tutto anche adesso, quindi cerchiamo di goderci quello che c'è finché c'è. Hai affermato in una recente intervista che sarà una raccolta un po' del tuo, del vecchio te e del nuovo te, anche perché ricordiamo che tu, diciamo che ti sei preso un po' un anno e mezzo sabbatico, giusto? Quindi cosa ti ha spinto anche a tornare con insomma diversi successi, insomma, diversi singoli importanti, ecco, raccontaci un po'. Ma mi ha spinto probabilmente, anzi sicuramente, la voglia di fare musica. Nel senso, non c'è stato da parte mia una programmazione dietro, non mi sono mai messo al tavolo e ho detto adesso scrivo una canzone. Mi sono ritrovato di punto in bianco a poterlo fare e poi a volerne fare un'altra, quindi c'è veramente la voglia, non lo vedo come un lavoro, non lo vedo come un impegno, cerco di farlo al meglio, per questo unisco il vecchio e il nuovo, per cercare anche di stimolarmi, di creare qualcosa perlomeno nuovo per me, che certo, risulta originale alle mie orecchie. Cos'è cambiato dai primi singoli che hai fatto ad adesso, insomma, con questi tre, e che cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo album che uscirà? Probabilmente rifletto ancora di più su quello che scrivo, cerco un po' meno la frase effetto a prescindere da tutto, ma mi concentro molto più sul contenuto, sul messaggio, che so benissimo che spesso e volentieri viene travisato, però perlomeno lo cerco per me nel momento in cui devo scrivere. In linea di massima questo è il grosso cambiamento. Mi faccio più domande, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del contenuto, come potrei fare questo in maniera migliore rispetto a come la farei di solito. E facendoti più domande, il Mudimbi di oggi cosa vuole trasmettere? Cioè, che messaggio vuole trasmettere con l'album che stai scrivendo, con questi tre singoli? La cosa più importante che per te deve arrivare a chi ti ascolta? Ma guarda, in realtà non faccio mai troppo carico la mia musica di un messaggio reale, nel senso che se non arriva niente va benissimo comunque. Io il messaggio ce lo metto per poterlo scrivere, ma non sono sicuramente un messia. La cosa buona che spero faccia arrivare questa musica, queste canzoni a cui sto lavorando, è alleggerire un po' o appesantire, perché ho scritto cose anche molto conscious che toccano molto, diciamo, nel privato, nell'animo, d'accordo? Mi auguro che quello che scrivo possa o servirti a ridere o possa farti piangere, come ne abbiamo tutti bisogno, per carità, non è che voglio fare del male psicologico a qualcuno, ma ogni tanto sfogarsi, certo, serve a chiunque. Ecco, se riesco a toccare una di queste due corde mi ritengo già un signore. Ecco, a proposito di questo, insomma, di mettere qualcosa, di portare, insomma, non per forza un messaggio, però un contenuto sicuramente nelle canzoni che si fanno, e recentemente noi abbiamo proprio parlato di una polemica che c'è stata recentemente, appunto, legata a Emi Schilla, il testo della canzone che ha fatto, l'ultimo singolo, dove portava, insomma, un testo abbastanza spinto e un po' acceso verso magari la figura della, della donna, ecco. E spesso ci capita che purtroppo in alcuni testi rapper ci sia la necessità quasi di dover per forza magari lanciare qualche insulto, qualcosa. Invece è bello appunto rimettere dei contenuti, qualcosa che invece fanno un po' rivalutare il genere, che appunto in realtà è un genere fantastico se ha dei contenuti, appunto. Un po' quello che dicevi tu, in realtà toccare le corde che possono essere sia del pianto, della risata o della riflessione. Non so se tu hai seguito questa insomma questo dissing che c'è stato tra Margherita Vicario e i fan di Emyskill. Volevamo sapere un po' tu cosa ne pensi. No, allora, non ne sapevo veramente nulla, vi dico la verità, quindi sull'episodio in sé non ho mezzi, però vi giuro che me lo vado subito a guardare. Ok, sono curiosissimo, ora che mi avete detto i nomi dei diretti interessati. Sì, è un po' quello che infatti noi abbiamo fatto il programma lunedì parlando un po' di questa cosa, lanciando l'hashtag noi stiamo con Margherita Vicario, però appunto noi ti abbiamo ascoltato molto in questi giorni per preparare l'intervista e abbiamo notato, come lo stavi dicendo anche tu, quanto dai l'importanza alle parole e a quello che scrivi. Quindi in realtà la domanda voleva essere un po' più generica e chiederti tu cosa ne pensi del linguaggio forte che spesso viene usato verso la figura femminile. Allora, questa è una domanda molto oggi molto Radio delicata. Città Fujiko ti fa domande un po' strong. No, ma è giusto, per carità, non è che possiamo parlare sempre del meteo. Allora, io li ho usati in passato e li ho usati anche nei singoli che sono appena usciti. Uso linguaggio forte riferito sia alla donna, ma in generale anche all'uomo. Ho già risposto in realtà poco tempo fa a una domanda del genere e il ragionamento che ho fatto, il mio personalissimo punto di vista, è che vivendo in una società patriarcale, super sessista, che ha coniato dei termini appositamente per offendere la donna, sì, che sono carichi appunto di un potere che non è convertibile al maschile, d'accordo? Proprio la società in cui se io faccio sesso con molte donne sono un eroe, se lo fa una donna è l'esatto opposto. Certo. Nel momento in cui un Emyskill appunto avesse fatto un dissing a un uomo, sarebbero stati semplicemente due uomini che si insultavano. Nel momento in cui invece viene rivolta ad una donna, la cosa è molto accentuata, proprio perché sottolinea che viviamo in una società in cui la donna può essere bersagliata in una maniera totalmente diversa da un uomo. Quindi non me la prenderei proprio con il rap, perché alla fine il rap, la musica, l'arte in generale sono sempre lo specchio della società in cui viviamo. Ovvio, non so che termine abbia usato Emyskill, per carità, però la rosa è molto ampia, posso immaginare. Però non me la prenderei esattamente con lui, anche perché viene da un genere, veniamo da un genere, quello del rap, che è già molto sessista di suo, cioè molto testosterone alla base proprio da quando è stato creato. Fa riflettere ovviamente il fatto che un dissing di un uomo verso una donna suoni in una maniera, due uomini che se la battibeccano è all'ordine del giorno e non ci fa caso, perché i termini sono quelli e perché tra uomini le cose passano in un'altra maniera sotto la lente di ingrandimento, soprattutto in questo periodo storico in cui fortunatamente sul tavolo si sta mettendo l'attenzione su svariati argomenti che sono appunto dal sessismo al razzismo ed altro. Questo è un po' il mio pensiero a grandi linee per il poco tempo che mi posso prendere, se no ci mettiamo seduti, facciamo proprio un bel dibattito. Quando vuoi in realtà possiamo fare un bel dibattito, perché secondo noi insomma Radio Città Fujiko e Fujiko Factory cerchiamo di comunque portare anche in radio queste tematiche, trasmettiamo tantissima musica, è un programma di musica, parliamo di musica, però ogni tanto è bello anche, non so, parlare con gli artisti anche di questo, quindi ci siamo permessi di farlo con te. No, avete fatto benissimo e non vi nascondo che io stesso, tra l'altro proprio post pandemia, che non so di non essere stato l'unico, però mi si è molto alzata la soglia della sensibilità riferita a tante cause sociali, a partire dal razzismo, ma in realtà mi sono anche avvicinato e interessato certamente molto alla causa femminista e mi sono ritrovato a farmi molte domande su quello che ho scritto in passato, su quello che stavo scrivendo e su quello che scriverò. Per me è normalissimo e sacrosanto mettersi sempre in discussione, perché magari delle cose non sono lampanti oggi, ne senti parlare domani e dopodomani le capisci, cioè ognuno ha i suoi tempi, per carità. Però parlarne è sempre la migliore cosa e poi ognuno deve trarre le proprie conclusioni. Che poi penso sia in realtà il bello della musica, che evolve con la società, che evolve e tira fuori sempre nuove tematiche, nuovi dibattiti, quindi penso sia bello. Io in realtà ti ascolto da parecchio tempo e questa trasformazione nei tuoi pezzi l'ho sentita e quindi l'ho apprezzato molto. Bene, mi fa piacere. E poi appunto in realtà hai anche creato questo progetto, che è il tuo collettivo di videomaking Banana, giusto? Esatto, una piccola casa di produzione di videoclip e documentari. Siamo molto interessati a entrambi gli argomenti. È un gruppo di amici con cui già giravo video e ognuno magari per conto suo abbiamo deciso di unire le forze e creare questo collettivo appunto. E che progetti futuri hai? L'album, cioè c'è già una data di uscita? Ci stai ancora lavorando? No, non c'è ancora una data d'uscita. Vorrei, guarda, non solo vorrei dirla, ma vorrei saperla, che in realtà non poterlo dire. Ma no, c'è una data vaga, però preferisco non mettere in giro fake news, visto che già ne circolano parecchie. Ok. Ci saranno più o meno una decina di tracce. La rosa, a livello proprio di genere, di tematica, cercherò di tenerla più ampia possibile, perché mi piace sempre spaziare, cercando comunque di tracciare un filo conduttore, quindi ci sto lavorando al meglio delle mie possibilità. E noi allora non vediamo l'ora di sentire il prodotto finale, questo disco che uscirà data X, però noi ti riaspettiamo qui nei nostri studi di Radio Città Fujiko quando vuoi. E appunto, prima abbiamo ascoltato Il Mago, che è giusto la canzone che hai portato a Sanremo nel 2018. Esatto, in tempi non sospetti. In tempi non sospetti. Sì. E ora invece ti salutiamo, ti ringraziamo per questa bella chiacchierata, mi è piaciuta molto. Grazie anche a me. E ci ascoltiamo il tuo brano OMP o Ora e Mai Più, che soprattutto durante il ritornello vi accorgerete OMP cosa significa, oppure potete trovare dei significati voi e scriverceli al 333 180 94 94. E noi ringraziamo Mudimbi e ci risentiamo prestissimo. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. Benvenuto, gioca e dormi, fa bei sogni, corri a scuola, sta al tuo posto, il mondo è vostro, fai i tuoi viaggi, vivi, esplora, va al lavoro, paga i conti, fai famiglia, déjà vu, lui che dorme, tu che invecchi, sogni d'oro. Ora mai più. Benvenuto, gioca e dormi, fa bei sogni, corri a scuola, sta al tuo posto, il mondo è vostro, fai i tuoi viaggi. Ora mai più. Va al lavoro, paga i conti, fai famiglia, déjà vu, lui che dorme, tu che invecchi, sogni d'oro. Ora mai più. Benvenuto, gioca e dormi, fa bei sogni, corri a scuola, sta al tuo posto, il mondo è vostro, fai i tuoi viaggi. Ora mai più. Va al lavoro, paga i conti, fai famiglia, déjà vu, lui che dorme, tu che invecchi, sogni d'oro. Ora mai più. Sbaglio tutto finché è tempo, piangi fuori e ridi dentro, rischi e resta sempre attento, falla pure controvento, falle fare un ballo lento, passa sopra quell'orgoglio, chiediti cos'è che voglio. Ora mai più. Pensa o agisci, amo, tradisci, odio, capisci. Ora mai più. La calma o la fretta, rifiuta o accetta, batte o aspetta. Ora mai più. Dilla o falla, taci o parla, guarda o balla. Ora mai più. Resta o vai, sogna o fai, ora o mai. Ora mai più. Da qui non ripassa due volte davvero nessuno. Puoi scrivertelo a chiare lettere e starne sicuro. Oppure guardare il passato e predire il futuro, ma senza riuscire a vedere che il momento è uno. Oppure guardare il passato e predire il futuro, ma senza riuscire a vedere che il momento è uno. Ora mai più.